100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. 20.320 euro. Questo è quanto guadagnano gli italiani. Il problema è che uno su quattro continua a non pagare le tasse. Malgrado gli sforzi degli ultimi anni, gli attacchi ad Equitalia, le polemiche sugli scontrini andati a verificare davanti ai negozi delle località più famose in Italia, il problema dell'evasione fiscale, soprattutto della totale mancanza di un quadro preciso su quanto guadagnano gli italiani, continua a pesare non soltanto sull'immagine del paese, ma in effetti anche su quello della contabilità nazionale. Il problema, insomma, resta grande. Nel 2014, secondo quanto comunicato, il reddito medio è stato di 20.320 euro lordi, questo secondo le statistiche sulle dichiarazioni dell'anno scorso, pubblicate dal Ministero dell'Economia. C'è un leggero aumento rispetto all'anno precedente, quando eravamo a 20.070 euro, ma a calare è il numero delle persone che ha presentato la dichiarazione dei redditi vera e propria, soprattutto nella fascia di età tra i 24 e i 44 anni. C'è sicuramente l'evasione, ma bisogna anche ricordare che c'è un problema di disoccupazione e di assenza di redditi che in Italia non soltanto è quasi cronico, ma soprattutto preoccupante, perché sta escludendo dalla possibilità di lavorare e di crearsi una famiglia milioni di italiani. Basta pensare che quasi più del 30% dei nostri giovani sono disoccupati. Che cosa fare? Beh, sicuramente l'azione del governo e l'azione soprattutto della Guardia di Finanza contro gli evasori è fondamentale, ma è soprattutto la necessità di creare lavoro e occupazione quella che manca sotto le nostre dichiarazioni dei redditi. Lavorare di più e soprattutto guadagnare meglio è la base per un sistema fiscale sano e per un paese che cresce. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Lieve rialzo per il tasso di disoccupazione, che in febbraio è risultato pari all'11,7%, un aumento dello 0,1%, pochi decimali, ma che comunque sul piano psicologico certamente non aiuta, è quanto ci ha detto l'Istat pubblicando i dati provvisori su occupati e disoccupati. Per quanto riguarda i dati più precisi, i disoccupati sono aumentati di circa 7.000 unità, con un aumento percentuale dello 0,3%, che sintetizza un dato di crescita tra gli uomini e di calo tra le donne. Positivo, anche se di poco, il dato sulla disoccupazione giovanile, che scende al 39,1%, anche in questo caso una variazione decimale, meno 0,1%. Insomma, l'entusiasmo che aveva suscitato il dato di gennaio, quando c'era stato registrato un buon aumento dell'occupazione, si è un po' spento con il dato di febbraio, ma qualche ragionamento andrebbe fatto. Già a fine 2015 si poteva aspettare, per i primi mesi del 2016, un contraccolpo dalla riduzione degli incentivi, i famosi incentivi del Jobs Act, che hanno reso più vantaggioso assumere a tempo indeterminato. Il risultato è che il tasso di disoccupazione difficilmente tornerà a calare, se non nella seconda metà dell'anno. In altro modo, non dobbiamo quindi considerare una frenata del miglioramento occupazionale, ma inquadrato soprattutto come una pausa, in attesa soprattutto da parte degli imprenditori di capire se dal governo arriveranno altri aiuti alla massa di disoccupati che ancora grava sul paese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.